Let's start what we have come into the room to do. Please cut the fuck. To do. Fuck. Do. Fuck. To do. www.askthebenny.com. Greetings, greetings, saluti, ciao ciao. E di nuovo battito madre, Coli, ben ritrovato. Ben ritrovato anche a te, Pierino. Siamo tornati, anche questa volta, scusa, perché l'ultima puntata l'avevamo fatta 5 settimane dopo la precedente, questa invece la stiamo facendo 3 settimane dopo la precedente. Siamo all'episodio 5 di Battito Madre in diretta su astralbene.com e su Radio Exalge e live da Exalge in Milano. Bello, abbiamo dovuto aspettare meno questa volta. Abbiamo dovuto aspettare meno, abbiamo avuto meno tempo per prepararci, ma insomma, alla fine 3 settimane sono sempre abbastanza. Diritto. Ringraziamo Exalge, ringraziamo Starbene, che sono le nostre case fisiche e virtuali, ringraziamo la Black Music e la radio per esistere e perché sono i motivi perché noi siamo in grado di fare questo programma che chiamiamo Battito Madre, che è Black Music Talk, uno spazio di curiosità di due persone a cui la Black Music riempie la vita e che sono profondamente curiose, ecco, sì, spazio di curiosità. Curiosità, abbiamo capito probabilmente anche con il passare del tempo quanto effettivamente la Black Music fa parte della nostra vita, ancora più di quanto pensassimo all'inizio, credo, Sì, credo anch'io. Io ho fatto questo ragionamento. Anche io, assolutamente, e di quanto ci piaccia, perché poi più ne scopri più ti piace e dici, cazzo, questa è veramente la cosa giusta. Ma comunque, per cominciare, senza cominciare già a perderci i primi 2 minuti di diretta, facciamo un po' di chiacchiera così, che suole essere leggera, invece questa volta purtroppo le notizie di Black Music sono entrambi tristi, perché sono entrambe due lutti, perché parto dalla seconda, che è la più recente, che è quella su cui ho in realtà meno parole da spendere, perché ieri è morto il batterista storico degli Azimuth, storica band di funk, jazz funk brasiliano, band degli anni 70, proprio sono una colonna portante del genere, per cui pensieri a Ivan Conti che ci ha lasciati ieri. Ma la triste notizia, almeno per me e per quelli come me che si occupano di reggae, dub e di sound system nella vita, è arrivata esattamente una settimana fa, Coli. E cioè quella della scomparsa, della partenza di l'uomo che chiamavamo Jashaka, il cui vero nome è ancora, insomma, non è stato reso noto, la vera data di nascita non si conosce, è una figura leggendaria del sound system reggae dub UK, stile UK, è il motivo, insomma, è il fondatore, il primo che ha fatto Sound System nel modo che noi adesso lo chiamiamo UK, ma non è neanche solo questo, è davvero difficile far capire la portata di questa figura a chi ne sente parlare per la prima volta, perché aderiva talmente tanto alla cosa, no? Al Sound System, che è diventato sinonimo di quello, insomma, è una presenza che sicuramente mancherà tantissimo a non solo alla scena, che a quelli che lo fanno ancora in questi giorni, ma insomma a chiunque faccia musica in un certo modo. Bass music esiste soprattutto grazie a Jashaka. Se ne potrebbe parlare per un'ora intera, per una puntata intera, io credo che torneremo a parlarne nella prossima puntata, cioè l'ultima, che è quella in cui parleremo di clubbing, più direttamente della musica come ballo, come abbiamo fatto nella pilota. Andiamo un po' a chiudere il cerchio. Sì. Anche se comunque devo dire che già da questa puntata una pennellata di finalmente di clubbing e di balli, di movenze, eccetera, la diamo, perché non abbiamo ancora introdotto probabilmente. No, non abbiamo ancora detto nulla. Ok, fantastico. Però sì, hai ragione, lo riprenderemo la prossima volta e come dici tu, grande perdita per tutto il mondo e l'ambiente musicale che supporta appunto come cioè quello che piace a noi, no? Il supporto reciproco della musica, la divulgazione, portare nuove culture in altri posti, e sì, e quindi niente. Sì, ecco, le dance di Shaq erano luoghi spirituali, erano luoghi sicuri negli anni 70, nella Londra super razzista e razziale negli anni 70, è stato questo e molto altro, non possiamo sicuramente condensarlo in questi 5 minuti che gli stiamo dedicando e che gli possiamo dedicare. Ma appunto, Coli, giustamente tu mi hai già riportato, non abbiamo ancora detto di cosa parliamo oggi, perché parliamo di hip hop. Ah! Abbiamo detto hip hop 101, nel senso i fondamentali, le prime cose, perché anche questo è un tema talmente ampio che non si può che parlarne un po' per compartimenti, che non stagni, ma per decidere di parlare di questo oppure di quello. Oggi fondamentali, per cui dalle origini a un po' oltre, diciamo. Ne parliamo a modo nostro, semplicemente, ne parliamo alla maniera di battito madre. È un 101, me l'hai spiegato tu cosa vuol dire 101. Infatti, ho peccato, vedi, perché siamo una bella squadra io e Coli, perché io purtroppo tendo ad essere cervellotico e ho bisogno di Coli che mi rimette con i piedi per terra. In questo caso non è successo e ce ne siamo accorti tardi. Insomma, hip hop 101, la prima lezione di hip hop, anche un po' per noi, perché abbiamo scoperto cose che non conoscevamo. Lo ribadiamo questo, noi nelle nostre lezioni impariamo, non vogliamo prenderci i meriti, le cose, o non lo so, cioè, nel senso, lo studio che facciamo è in base a quello che ci piace, a quello che troviamo e a quello che reputiamo interessante. L'approfondimento poi deve essere intrinseco, noi la lanciamo lì. Esatto, ecco. Dei semini. E allora, bando alle ciance, questo è hip hop allo stile di battito madre, senti come fa Cole. I know how you feel. Rainbow make the headache, bigger the pill. The harder you fall, stronger the will. We came from the back of the bus, talking watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggle went from filling your gas tank. The bank wasn't filling your loan. The OT couldn't cover the bills. So life came with a couple of spills, but we gon' use that pain for fuel, so give me no excuses. Questa è Pain di De La Soul e Snoop Dogg, di un disco che è del 2016, che si chiama And the Anonymous Nobody. Direi che siamo partiti abbastanza dritti, drittissimi, così, così, cioè, abbastanza forse, gamba forse tesa. Uno dei dischi più belli dell'hip hop contemporaneo. Mamma mia. Mamma mia. E questo pezzo, direi, entrambe le entrate, come entra della Soul, come entra Snoop, proprio che ti lasciano. Ed è questa anche la bellezza un po' dell'hip hop. Cominciamo, cioè proprio andiamo, proprio gamba tesa. Forse una delle cose più fighe dell'hip hop è il brivido che hai quando entra il rapper. Le prime 2-4 barre già ti danno un po' la sensazione del pezzo. Se ci sono i brividi, dici ok, quel pezzo magari te lo salvi, tornerai ad ascoltarti. Sì, è vero, è una cosa, è vero, hai detto una cosa. Che prima magari si faceva più difficoltà a osservare, nel senso quando entrava il cantante era già parte della canzone. In questo caso abbiamo proprio una parte ritmica che viene assassinata dalle rime e dalle parole degli MC. Quindi un concetto effettivamente diverso da quello che abbiamo affrontato fino ad oggi. Sì, abbiamo già detto MC, abbiamo già detto che abbiamo già detto parole e rime, perché c'è questa questione della spoken word, della parola parlata sopra un beat che viene formato in un certo modo, ma insomma poi lo andremo a dire, ma... Ecco, e visto che noi a Battito Madre stiamo facendo una prima lezione di pop alla maniera di Battito Madre, visto che io insomma lo ripeto molto spesso, sono un reggae man, mi piace molto il reggae e credo che la Giamaica sia uno dei posti musicalmente più importanti per la storia, per lo sviluppo della storia di questa musica, che è la black music, che noi amiamo. Nel frattempo ha segnato l'Inter e qui a Exagio si sta scatenando il delirio. Wow. Ecco, però ripartiamo dalla Giamaica, cioè dove siamo stati per tutta la scorsa puntata. Sì, è giusto ripartire da lì, appunto, perché vabbè, poi lo diremo dopo anche con cioè integrando un po' il discorso. Però tu dici Giamaica e già parli di una cosa chiarissima, che è l'utilizzo di strumenti e di tecnologie nuove. O sbaglio? Sì, innovazione. Perché in realtà prima che di Sound System adesso andiamo a parlare di un'altra persona, che purtroppo un altro che ci ha lasciato. Ed questo è successo quasi poco più di 2 anni fa, perché è successo il 18 febbraio del 2021. Parliamo di Daddy Uroy, cioè The Originator, uno dei primi che ha cominciato a fare una cosa molto simile, a parlare su un beat, e al tempo in Giamaica invece era la version, cioè o il rhythm, o cioè appunto o la versione dub oppure solamente la musica, cioè rhythm, cioè beat di un pezzo. Infatti insomma, ma questo viene riconosciuto un po' da tutti, certo. L'influenza di Uroy sulla nascita del rap, perché lui e altri come lui, ma contemporaneamente con lui, ma insomma viene riconosciuto a lui, The Originator, Daddy Uroy, uno dei primi che parlò sopra una version. Certo, che poi ha dato tra l'altro origine a un genere vero e proprio, no? Cioè, esatto, che si chiama DJ Style. Altri grandi, un altro grande nome che mi viene in mente ad esempio è Dennis Al Capone, che abbiamo già nominato. Questo preciso stile, questo preciso modo di parlare, un po' una mezza via tra il parlato e il cantato su una version. E forse senza troppi indugi potremmo già andare a sentire questo, diciamo, primo pezzo, ma anche se è il secondo, ma da qui vogliamo far iniziare la storia dell'hip hop. Questo è un pezzo che è su una version dei Paragons, che si chiama Where You To The Ball, inserita nel disco del 71 di Daddy Roy, che si chiamava a proposito Version Galore. E di nuovo andiamo un'altra volta in Giamaica, U-Roy, The Paragons, nel 71, una delle prime avvisaglie di quello che sarebbe poi diventato hip hop. Where You To The Ball, mi devo correggere perché il disco Version Galore di Daddy U-Roy è del 70 e non del 71, ma insomma tanto meglio per quello che vogliamo fargli dire. È la prima traccia in cui qualcuno fa un parlato, è incredibile. E ma poi, sì, appunto, si capisce, dai, no? Si capisce perché è importante, sì. Proprio per questo modo di starci sopra. Mezzo cantato, è proprio un ritmo diverso. È chiaro che ha fatto iniziare qualche cosa, no? Risentendola, poi, secondo me, la cosa che dicevamo prima del fatto di entrare su una parte ritmica, cioè quindi lo staccare, l'elevarsi da quello che è il resto della canzone, qua si percepisce immediatamente ed è la prima volta. Cioè... Sì, in Giamaica si faceva molto questo fatto del che sul side B, no? C'è la version oppure solo direttamente il rhythm. E allora sui sound system live alle feste gli MC andavano, ci imboccavano, come si dice giù a Roma. Ed effettivamente questa cosa è molto tipicamente giamaicana. E poi esportata negli Stati Uniti, come diremo adesso, c'è un motivo per cui partiamo dalla Giamaica. Questa stessa idea di separare, no? La voce dalla musica, di fare due cose diverse, mettere insieme due cose che non sono nate insieme, è hip hop 101, è una cosa fondamentale in questa cultura, più che genere musicale, perché hip hop è una cultura molto complessa che poi si è sviluppata in tanti modi e non solo nella musica. Ma veniamo al sodo, Cori, perché Giamaica? Perché un uomo che si chiamava Clive Campbell, cioè Kool Herc, che è considerato la prima persona a fare un breakbeat, a inventare il breakbeat, è nato a Kingston, Jamaica, il 16 aprile 1955, ed è già fatto tutto qua. Kool Herc è stato, ripeto, il primo che ha fatto un breakbeat, tecnica di suonare proprio con due dischi, dalla quale si è poi potuto sviluppare l'hip hop con gli MC che ci imboccavano sopra. Esatto, se vogliamo dargli un minimo di contorno proprio storico, si tratta di... si parte da New York, prima cosa, no? Prima cosa giusta, certo, da dire. E siamo negli anni 70, quindi la musica che si ascoltava e che veniva prodotta e che faceva guadagnare e che era business era la dance music, la disco music. Esatto, che dominava anche proprio l'estetica di quegli anni. Se guardando documentari, leggendo, si sente proprio parlare di pellicce, champagne, quel tipo di estetica lì. C'era la musica, era la dance. Tutto, esatto. E se vedi poi effettivamente anche loro... chi ovviamente loro non sapevano di essere i precursori dell'hip hop, non avevano neanche idea di cosa fosse questo genere, di cosa stessero facendo. Lo stavano facendo perché in quel momento nelle feste c'era bisogno di sentire qualcosa di nuovo, no? Mi sbaglio, credo di no. No, non ti sbagli per niente. Per loro appunto stiamo parlando di Kool Herc e tutta la prima cricca di persone che ha iniziato l'hip hop. E abbiamo detto New York, ma c'è la possibilità di specificare ancora meglio il luogo, perché è il Bronx. Giusto. È il luogo per eccellenza degli ultimi, è il ghetto di New York. Abbiamo anche una data. Abbiamo anche una data per la prima festa hip hop della storia, ed è l'agosto del 1973. Nel Bronx di New York, Kool Herc si inventa la prima festa hip hop della storia con massimo 50-100 persone. Qualcuno dice che era la festa del diploma della sorella, qualcuno invece che era più una festa di quartiere per le gang locali. Fatto sta che nell'agosto 1973 tra le 50 e le 100 persone erano presenti alla prima festa hip hop della storia. Vogliamo dirlo cosa faceva Kool Herc a questa festa? Perché abbiamo detto che si suonava, che si sentiva dance a New York all'epoca? Perché la mossa decisiva di Kool Herc è stata questa. Lui aveva i dischi. Prima cosa, cioè forse anche da sottolineare, Kool Herc era un DJ, non era un produttore, non era, quindi ascoltava musica, comprava musica e probabilmente la sua passione nella vita era la musica. Cosa faceva però? Quando si ritrovava nel sentire un disco, ha probabilmente realizzato che all'interno di questi dischi, che erano quelli più mainstream oppure no, ma in ogni caso all'interno di tutti questi dischi di questo genere musicale che era soul, funk, esatto, questo, esatto, R&B, eccetera, c'era una parte all'interno della traccia in cui tutto si asciugava, quindi voleva dire andavano via le voci, andava via la archi, parte melodica, fiati. Andavano via i fiati, esatto, tutti quegli strumenti in cui, cioè, che quindi davano componenti al brano, e si asciugava in beat and bass, quindi percussioni e bass. Ed era una frazione all'interno del pezzo che lui ha deciso di, com'è che si può dire, isolare. Isolare e prolungare. Il punto è che non è che aveva il computer, cioè non esistevano i computer e non esistevano i campionatori. Scusa, e questa parte si chiamava break. Il break, questa, esatto, precisa break. Parte di una canzone. Bravissimo. Cosa faceva lui? Prendeva il break e lo ripeteva con due copie dello stesso disco su due giradischi. Questo ha dato via alla possiamo dire anche alla break music, ma soprattutto alla cultura b-boy. Esatto, si sono messi a ballare e poi c'era la graffiti, ragazzi. Art, e questo è un po' tutto l'insieme della cultura hip hop. Ma hai detto una cosa importante, perché noi abbiamo appena finito di dire che a New York si sentiva la dance, la musica che si ballava era questa. La cosa fondamentale, la scelta fondamentale di Kool Herc è stata invece riprendere in mano dei dischi R&B, soul, blues, e prendere da lì i propri break, prendere, insomma, e suonare quello alle feste. E questo per la comunità nera di inizio anni 70 del Bronx, che ovviamente erano esclusi tra l'altro dalle feste super chic con pellicce, champagne e quant'altro del jet set newyorkese, è stata la scelta proprio decisiva perché poi nascesse quello che di nuovo chiamiamo hip hop. Leggiamo, sì, di sound system mobili, leggiamo di block parties, certo, ragazzi, nei ma parchi. Perché la festa, la festa e il raggruppamento di persone in questo caso è fondamentale. Non esiste l'hip hop e non poteva esistere se non ci fossero stati party e feste in cui le persone si riunivano e ballavano quella musica. E quindi ovviamente anche l'introduzione, l'utilizzo dei sound system, quindi come diceva Pierino la cultura giamaicana, il block party hanno dato il lancio a questa cosa qua, e senza di quelle non si sarebbe potuto fare niente. Esatto, tant'è appunto che l'hip hop, lo ripetiamo, è nato da una festa di Kool Herc, in cui lui decise di suonare in un modo diverso, insomma, e poi vabbè, facciamo di nomi, Grandmaster Flash and the Furious Five, Africa Bambaata, che ha anche fondato la Zulu Nation, questa rete di sicurezza, diciamo, nel Bronx newyorkese, dentro la comunità nera, che tuttora abbiamo visto in un documentario è rispettatissimo dalle sue parti, lo salutano tutti e hanno un amore infinito per Africa Bambaata. Forse manca l'ultimo accenno per dire effettivamente stiamo parlando di pop, perché per adesso abbiamo soltanto parlato della parte ritmica e strumentale, ma bisogna fare cioè l'abbiamo fatto prima, spoken word, yeah, musica giamaicana, Daddy Uroe, nuovo modo di interagire con la musica e con gli strumenti. Questa cosa c'era sia lì, sia nelle radio, e adesso arriva nei party. Perché si isolano gli strumenti, si isolano le parti melodiche, si isolano tutto il resto. Cosa poteva fare chi era lì a gestire la festa se non parlare sopra i beat? Giusto? Giustissimo, interagire con la musica è la scelta di un verbo, secondo me, perfetta, che mi piace moltissimo, perché è proprio intrecciarsi con quello che si sente uscire dal disco e trovare il momento giusto per dire la cosa giusta, ma non tanto la cosa giusta, ma la cosa che suona nel modo giusto. Sì, l'importante era far divertire e intrattenere, e chi si ritrovava lì... Probabilmente se avesse avuto altri, cioè poteva mettersi lì e probabilmente a suonare, però la cosa più immediata era avere un microfono in mano sicuramente e parlare alle persone. Everybody in the house, say oh, oh. Say ho. E vabbè, e possiamo eventualmente farsi adesso, non lo so se la regia tecnica ce lo fa fare. Andiamo, vediamo velocemente. Però questa cosa è importante perché, vabbè, l'abbiamo già detto, che cazzo ci stiamo a ripeterci. Comunque stavi facendo dei nomi, no? Grandmaster Flash, Furious Five, poi le persone hanno iniziato anche a mettersi insieme. Cioè c'erano i capisaldi, chi veniva invitato in un locale piuttosto che nell'altro. Però poi è nata effettivamente una ricerca, una voglia di fare improving di questa cosa qua. Quindi persone che avevano a che fare delle stesse cose e parlavano nello stesso modo, probabilmente lavoravano in radio, lavoravano nella musica, eccetera, si sono messi insieme e hanno deciso di creare questi gruppi che facevano ballare, facevano vivere questa cosa qua come mai si era fatto prima. Perché sì, giusto, la radio, l'influenza di alcuni DJ newyorkesi che quasi rappavano proprio sulle canzoni che si passavano in radio è stata anche fondamentale. Comunque ce l'abbiamo, se vuoi, un pezzetto di Grandmaster Flash and the Furious Five. Il campione si riconosce subito, è proprio forse uno dei pezzi più famosi di quel tipo di pop di fine 70. Musica, ne parlavamo giusto quando stavamo preparando la puntata, musica elettronica qua sotto. Assolutamente. Cioè, ci sono le drum machine, e queste drum machine arrivano dalla dance, dalla disco music, non da altre cose. E questo però ha dato via a quello di cui stiamo parlando oggi. E senti come ci andavano sopra. Broken glass everywhere, people on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room. Esatto, così. Queste erano le prime feste di pop a New York. Devono essere state una cosa divertentissima. E vedi, una parte divertente di un'intervista a Kool Herc è quando dice: sì, in tantissimi dicono di essere stati a quella festa, in realtà c'erano 50-100 persone. E poi a questi che me lo dicono gli chiedo l'età, e appena mi rispondono dico: no, tu non c'eri, lascia stare. Bello, voler reclamare la propria partecipazione a quella che è stata una festa fondamentale per la storia della musica. Adesso non l'abbiamo ancora detto, ma l'hip hop praticamente è il genere musicale più ascoltato al mondo. Piero, stiamo parlando di innovazioni e cose veramente nuove, penso, rispetto a tutto. Cioè, nel senso, nelle puntate precedenti parlavamo di cose che arrivano dal passato. Adesso finalmente siamo nel futuro. È giusto? Cioè, siamo proprio nell'attuale. Siamo adesso. Adesso. Ed è per quello anche che magari non abbiamo messo uno di questi pezzi di Grandmaster Flash, di Furious 5 o di Africa Bambaataa in playlist, perché come per paradosso le cose più vecchie di un genere che è ancora tremendamente attuale facciamo forse proprio più fatica ad ascoltarle, mentre un pezzo degli anni 40 di Richards non facciamo per niente fatica ad ascoltarlo, perché non è più una cosa che abbiamo nelle orecchie. Io direi, abbiamo già detto abbastanza, possiamo procedere con le nostre piccole canzoni musicali. Con le nostre bellissime canzoni musicali. A proposito di New York, questo è uno dei rapper più osannati della città in quegli anni. È un pezzo che di cui adesso ti dico tutto, è del 1988, non proprio quegli anni ma dopo. Ma super lyrical, molto lirico, con un flow killer. Si tratta di Big Daddy Kane, il disco è Long Live the Kane, il pezzo si chiama Set It Off, senti quanto spinge. Let it roll, get bold, I just can't hold back a fold, cause I'm a man with soul, in control and effects, so what the heck, rock the discotheques and this groove is what's next, attack, react, exact, or Mac, I'll move you in, a strong song as long as you groove to this, I keep the crowd loud when you hype, do damage on stage and injure the mic, as I shoot the gift, MC stand stiff, while my rhyme stick to you like Skippy and Jip, feel my blood fist on my death kiss, the rap soloist, you don't want none of this, supreme in this era, I reign with terror, when I grab the mic, believe you're gonna hear her, fascinating rhyme as I enchant anthem. So let's all sing the Big Daddy anthem. Go with the flow, my rhymes grow like an afro. I entertain the gain and cane, I never have no problem. I can sneeze, sniffle, or cough. Even if I stutter, I will still come off. Cause rappers can't understand the mics I rip. They sure enough ain't equipped, that's why they got flipped. But my apparatus is up to status. Don't ask who's the baddest. Of course, that is the maker, breaker, taker. My rhymes ache the head, put it to bed. So watch what's said. Say the bass for the pipe and rearrange the tone. I take a loss and be forced in the danger zone. Cause I can ill and kill at will. Teaching a skill that's real, you know, frill. So just stand still and chill as I feel. Science I drill until my rhymes fill. Your head up. Don't even get up. The teacher is teaching, so just shut up. I can't hold it back. Set it off. I can't hold it back. Set it off. Confront me and you can bet that I come correct, perfect and full effect. Disconnect, dissect, eject as I wreck shop. Stand in command with the clan, caravan or band. We go man for man and without further ado or any delay, Mr. C as we say, calling the DJ. Mad Money Murph with the triple M, smooth barber, keep on my flat top trim. Scoop love of my brother, scrap love of the other. Dancers of the crew so allowed, the boys to smother the floor and endure just for your pleasure. As the microphone, Lord proceed to get more. Acrobatic, Asiatic, rap fanatic, I get dramatic and rhymes start flowing automatically for me. So don't play me, obey me. When asked who's the best, you better slay me. I'm sending sucker MCs headed north, and if you still want some, set it off. For you to cope, it's just a wish and a hope. And if you are what you eat, then feed me dope. Cause I'm just about as dope as dope can get. Ultimate, legit, Kane is a perfect fit. The king of my kingdom, completing a cipher. The lyrics I bring them keep the crowd hyper. As I release the masterpiece, the groove will never cease until Kane says peace. So, maestro, yo, hit it. Big Daddy Kane's about to come with it. Cause I can't hold it back. Set it off. Big Daddy Kane, il pezzo si chiama Set It Off, dal disco che si chiama Long Live the Kane, del 1988, un pezzo fondamentale, storico dell'hip hop newyorkese di fine anni 80, che è quella che poi verrà chiamata la Golden Age of Hip Hop, o no Cole? Avevo il microfono spento, sì, è esattamente come hai detto tu, la Golden Age. E, stavamo parlando di innovazione tecnologica, no? Giusto? Sì, sì, sì, sì. E qua è dove mi entri tu a gamba tesa, perché io sono un po'... Io sono il fuffarolo, tu sei il tecnico. Allora, sì, diciamo a gamba tesa, ma con le ginocchiere. Però vabbè, insomma, le cose che abbiamo visto, letto e sentito le abbiamo più o meno capite. E di cosa si tratta? Cioè, nel senso, stiamo parlando di giradischi, prima cosa fondamentale, no? Quindi supporti di musica nuova. Cioè, intanto. Avete già sentito in questo pezzo gli scratch, che non vi sto neanche a spiegare perché non avete 50 anni, credo. Se ci state ascoltando, chi ci sta ascoltando non ha sicuramente 50 anni e passa. Quindi i giradischi, cosa hanno portato, cioè qualcosa, qual è stato però lo strumento fondamentale nella creazione delle basi per le produzioni hip hop? Infatti, perché un conto è live, hai due copie del disco, te la giosti, sei fortissimo, non è che sia facile, ma si capisce come si fa. Esatto, ma poi nello studio... hai fatto la tua cosa, però a un certo punto le etichette hanno iniziato a capire che c'era il bisogno a livello finanziario proprio di produrre questa musica qua. E adesso non mi ricordo qual era il marchio, ma c'è stata una macchina che ha segnato la storia proprio nella nascita e nell'evoluzione della storia dell'hip hop. Si chiamava SP12, SP1200, abbreviato SP12, EMU. Cosa faccio? Cioè, il succo era di musica, adesso ne abbiamo un sacco. Le cose belle sono già state fatte, e sono state fatte con musicisti veri, e sono state fatte registrando, e sono state fatte spendendo una barcata di soldi. Io queste cose qua, invece che rifarle, le copio, le prendo. Prendo dei mini pezzi, delle mini frazioni all'interno di questi brani musicali, le ripeto e le utilizzo per produrre la mia musica. Che non sono neanche più i break a quel punto lì, ma sono delle melodie di pochi secondi, di certo, poche battute. Ma anche già soltanto l'idea del break è la stessa. Cioè, nel senso, prendo una cosa che mi interessa da un brano e la utilizzo per quello che interessa a me. E questo è stato... Poi adesso è difficile entrare nel merito di cosa facesse questa macchina, però la manipolazione e la facilità che permetteva di manipolare i campioni che sceglievi da questi dischi era una cosa mai vista prima. Cioè, permetteva alle persone di fare beat in mezz'ora. Adesso non vorrei esagerare dire 10 minuti, però in mezz'ora quelli tiravi forti fuori 10 minuti, anche perché correggimi se sbaglio, ma c'era anche una drum machine incorporata, o sbaglio? C'era anche, ma fa tutto parte della macchina. Tu come drum machine puoi prendere una cassa, o puoi prendere un battito di mani, puoi prendere un qualsiasi pezzo di determinati secondi, ma anche, cioè, di frazioni di secondo molto più piccole, e utilizzarlo all'interno del tuo brano. Questa, cioè, dà delle possibilità infinite, soprattutto a, come hai detto tu, a persone che stiamo parlando di persone che vivono nel Bronx, che quindi possibilità economiche infinite non ce l'avevano. No, anzi molto limitate. Per cui questa, insomma, hai detto bene, possibilità infinite, da un disco, da una frazione di un disco, in forse davvero un quarto d'ora, mezz'ora, si poteva costruire un intero beat di 3 minuti, su cui poi si chiamava l'amico, il cugino, l'amico dell'amico, viene in studio, che era molto spesso seminterrato nel Bronx, dei posti del genere. Sì, esatto, nascita anche degli home studio, cioè quelli che oggi probabilmente producono il 60... No, vabbè, adesso non faccio delle stime stupide, ma tante produzioni della musica che ascoltiamo oggi vengono fatte in cameretta, come per la prima volta venivano fatte le produzioni della musica hip hop. Molto bello questo collegamento che hai fatto, perché è vero, questo strumento di cui abbiamo appena parlato, cioè l'SP1200, è quello che forse, ma senza forse, in quegli anni ha reso la musica molto molto democratica, molto molto alla portata di chi aveva un'urgenza ad esprimersi

villain that's mad, with potential to get bad as fuck, so I'ma turn it around, put in my clip, yo, and this is the sound, yeah, something like that, but it all depends on the size of the gap, taking out a police would make my day, but a nigga like Ren don't give a fuck to say, fuck the police. Tell the jury how you feel about this bullshit. I'm tired of the motherfucking jacking. Sweating my gang while I'm chilling in the shack and shining the light in my face. And for what? Fuck the police dei NWA, cioè N-Words, with Attitude, dal disco Straight Outta Compton, di nuovo del 1988. Sono un po' i precursori del gangsta rap, sì, oggi il titolo la dice molto lungo. Sì, Pierino, tu oggi mi hai chiesto: ma si può dire la parola con la N? Io ti dico, prima non sapevo risponderti, però effetti... adesso è il loro nome, Niggas, Niggas with an Attitude. Io sì, sono sempre, diciamolo. Tant'è che allora abbiamo i nomi, loro li abbiamo già detti, ci sono delle leggende, almeno tre: Eazy-E, Dr. Dre, Ice Cube, e gli altri sono MC Ren, DJ Yella, che hanno fatto comunque la storia almeno del gangsta rap. Ma sì, giustamente tu mi hai detto, Cori, adesso lo diciamo, c'è stato, diciamo, i primi gruppi di hip hop sono stati formati, erano caratterizzati in questo modo, cioè un MC, un producer e un certo numero di MC, in questo caso era un producer, cioè Dre, che però rappava anche. Certo. E 4 MC. C'erano, ad esempio, tornando nella costa est e uscendo da New York, andando a Staten Island, prendendo il traghetto, si arriva a Staten Island, c'erano i Wu-Tang Clan, che erano addirittura 9. C'era il Wu-Tang ed è stato forse una cosa irripetibile, 9 MC tutti insieme a cantare sulla stessa, certo, sullo stesso, allora, beat, e hanno fatto tra l'altro uno scalpore fortissimo, hanno avuto un successo molto grande, ovviamente. C'è una sorta di ricetta, no? Per arrivare, ah, sì, tu c'hai la ricetta, arrivare al gangsta rap. Ma passami la ricetta. Allora, non ce l'ho io, ma adesso proviamo a ricrearla, cioè facciamo una decostruzione degli elementi. Cioè, il Bronx, la gangsta attitude o comunque vivere secondo le regole della strada. Ci sono i beatmaker, ci sono le faide tra crew, ma non soltanto tra crew, tra costa e costa, poi magari ne parleremo più tardi, perché comunque è una cosa che viene più avanti con il tempo. Però effettivamente, cioè, adesso abbiamo la rabbia, cazzo, cioè dentro i testi e dentro la musica che stiamo ascoltando, cosa che prima sì, non c'era rabbia, c'era tristezza, malinconia e altre cose. Adesso abbiamo la rabbia. Ovviamente tutto ciò è stato portato da cose che conosciamo, crisi economiche, non saprei. Sì, ma soprattutto, ma perché il gangsta rap è nato nella costa ovest? Perché le gang sono nate sostanzialmente, le gang come le conosciamo oggi sono nate sostanzialmente nella costa ovest. Ed è stata ci sono dei motivi storici per questo. Noi tra l'altro abbiamo saltato a pie pari quella grande decade che sono stati gli anni 60, che sono stati caratterizzati negli Stati Uniti da delle tensioni razziali e sociali fortissime, che in quegli anni lì poi sono scoppiate. Certo. Soprattutto in California c'è stato il movimento degli hippie, che aveva come uno dei tanti slogan: mettete fiori nei vostri cannoni. Ora, se ci sforziamo, possiamo arrivare a capire che questo slogan per la comunità nera non funzionasse per niente, perché quegli stessi cannoni che nominavano nello slogan, loro li vedevano, se li vedevano puntati addosso tutti, ecco, i fottuti giorni. E questo tra l'altro potrebbe farci fare una piccola riflessione sul privilegio da cui partono certi tipi di movimenti come quello degli hippie, ma insomma, da lasciare per un'altra, per altre sedi. Dunque, il fenomeno delle gang è stato una risposta a questo bisogno di rappresentazione politica, di di quel tipo di comunità nera, cioè quello più giovane nella costa ovest, perché appunto, ripetiamo, nella costa est a New York c'era la Zulu Nation di Africa Bambaataa, in California non c'era ancora. Per cui dopo una rivolta molto famosa, si chiamano le rivolte di Watts, con il partito delle Black Panther coinvolto, insomma dopo questa, dopo le rappresaglie seguite a queste proteste, nacque la prima gang che si fece chiamare The Avenues, e insomma che presto si evolve in quelli che poi verranno chiamati Crips, e un altro membro dei Crips poi fonderà i Bloods. Ma sostanzialmente, insomma, per farla un po' stretta, Coli, scusami se stringo molto, per farlo un po' stretta, è successo questo. Come risposta al buco di rappresentazione politica nelle strade di Los Angeles e di tutta la costa ovest, sono nati questi fenomeni, questi gruppi di persone che giocavano con il confine dell'illegalità, che sono poi state le gang, e i Crips e i Bloods, che adesso sono, insomma, da allora e fino ad adesso sono le due gang che si odiano di più e che si ammazzano di più, insieme a quelle dei latini. I Bloods, fondati in Pirus Street a Los Angeles. Pirus Street, c'è un pezzo, no? Giusto? Esatto, perché poi c'è un pezzo nel 93 che si chiama Piru Love, perché insomma nel 92 le due gang hanno stretto una tregua che è durata molto poco, ma durante la quale è nato anche un progetto discografico. Perché effettivamente, tra l'altro, curioso, scusami, 20 anni dopo il primo episodio di violenza aperta tra le due gang, che è stato nel marzo 72, insomma un pestaggio, l'uccisione a botte di un Crip da parte di un Blood. È stato il primo episodio di violenza tra le due gang. 20 anni dopo c'è stata una tregua, una breve tregua. Tu parli di tregua, ma perché effettivamente si parlava di morti, guerra. Per strada. C'erano ancora dei sorta di codici, di etica, fino a un certo punto in cui erano bandite le pistole. Ma col passare del tempo queste cose qua, e poi lo vedremo più avanti con Biggie e Tupac, cioè si arriva proprio a spararsi per strada per l'appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro. O sì, una che quello è stato solo l'episodio più clamoroso, però appunto succedeva tutti i giorni che si versasse del sangue per faide tra gang, per una questione di appartenenza, di colori: Bloods rossi, Crips blu. Certo, e a noi però così interessa, perché cioè, il nostro scopo adesso qua qual è? Effettivamente capire come succedeva per altri generi musicali. Quello che sta succedendo adesso è rappresentazione di quello che sta succedendo ora nelle loro strade e nei loro quartieri attraverso la musica. Ma senti qua, a proposito, allora, brevemente il motivo per cui fu sancita questa tregua nel 92, perché era un periodo di proteste violentissime da parte di tutta la comunità nera in seguito dell'assoluzione di 4 poliziotti per eccesso di violenza nei confronti di un tassista nero. Dopo l'assoluzione le strade delle città di Los Angeles stavano scoppiando, per cui si è capito ben presto che le proteste non sarebbero durate solo un giorno, ma sono durate una certa per delle settimane, e per dare un messaggio di smettiamola di ucciderci tra di noi, le due gang più grosse, più conosciute, più pericolose di Los Angeles, Crips e Bloods, si sono trovate in una casa e hanno firmato la tregua. Ancora una volta la musica si rappresenta. La musica è di successo? Sì, perché appunto parliamo di gangsta rap, cioè era una realtà molto molto connessa con il rap. Certo. Anzi, non esisterebbe probabilmente il rap di oggi senza il gangsta rap, e quindi senza la violenza che portava a quella situazione in cui vivevano quelle persone lì, che non erano più i fiumi, i campi e il lavoro. Adesso si è diventato lo spaccio, ammazzare il crew opposto e la predominanza e il denaro. Penso che adesso tu parlavi di pace, l'abbiamo trovato un pezzo che parla di pace. Abbiamo trovato un pezzo che parla di pace e in cui ci piace mandare questo messaggio. Esatto, ci piace mangiare e mandare questo messaggio. Non abbiamo cenato, si capisce? ce l'hai in testa Cori, in effetti forse quando finiamo è il caso di mangiare un boccone, ma intanto ci suoniamo questo pezzo che è di quegli anni là, è di inizio anni 90, che ha il titolo che manda un messaggio, che è esattamente quello che vogliamo mandare, a parte qui Abbattito Madre, è quello che vollero mandare all'epoca, quello che ci sarebbe bisogno di mandare tutti i minuti, tutte le ore, tutti i giorni, cioè We Are All In The Same Gang. Breaking news that I come to you with the truth. The mean streets took 6 more lives overnight, all the result of gangbang stupidity. By the way, you gangsters should know, one of your victims was a 3-year-old girl. Local gang members, you still don't get it, do you? It's straight up madness everywhere I look. Used to be a straight A student, now he's a crook, robbing people just to smoke and shoot up. Used to have a crew cut, now he's a poop butt. Dropped out of school and he joins the neighborhood gang. Hanging on the street selling cane to his own people. Now when I say people, I mean color. You a stupid mother. Sister, since we are the mothers of this earth, it's time we start being good mothers from the birth of our children. No time for sleeping, teach them to fight and win. For the right reason, it's your time, it's your life, living. Proud to be black, young and gifted, lifted by the knowledge of taking the right route. Gang violence needs to be wiped out. One and the same, everyone came in the same chains, caught with the same aim, brain games and names changed. Destroyed the black male crack jail and semi-automatic and static if the crack fails. So since we all talk the same slang, stop killing my brother cause we're all from the same gang. Don't you know we got to put our heads together? Make the change cause we're all in the same gang. Now as a youth, I used to get my bang on, then on the app get my part-time slang on. When the time for me was no joke though, they knew I was crazy so they labeled me loco. Candy's please gone back feeling sporty, low riding and tossing up a 40, thinking in my mind that no one can handle us. The Dallas brothers never touched Los Angeles. Being the pimps that we are, we're here to speak of a situation that is gone too far. Here at home in the ghettos of L.A., where a young black girl is not promised to see the next day. Cause we used to coke on the streets before we made beef, but fools just lay and pray on the weak. It don't depend on the color of a rag, cause if you got what they want, you know they're gonna take what you cause have. Cause violence can only revolve from drugs and thugs and gangs that bang most times. It's a political thing. Yeah, a couple of spots are getting tired. And then the government wants the feet to get all get stopped. Ice-T, ripping the microphone the way I do. Listen close, my brothers, cause I'm talking to you. The problem is we got a suicidal lifestyle, cause 90% of us a living foul and wild. I say job, you say bad joke. I'd rather jack another brother, watch the gun smoke. Living in the fast lane, flipping like you're insane. You won't stop until your blood runs down the street drain. Don't you know we got to put our heads together? Stop the fight, make the change. Yo, we're not here to preach, yeah, because we're not ministers. We're telling it like it is, cause when it trans like sinister. The reality speaks for itself when it's spoken. A face head clutch can't bring nobody for smoking. Yo, bullets flying, mothers crying, brothers dying, lying in the streets, that's why we're trying. And stopping from falling apart and going to waste, and keeping the smile off a white face. And brothers, killing other brothers. I thought the idea was to love one another. Open up the paper to one more death. If y'all keep this up, then there'll be no one left. I try my best to set an example, saying hype lyrics over hip-hop samples. Not just to brag at the most, but to inform comes a living in the calm before the storm. I'm in a rage. Oh yeah? Yo, why is that, G? Of the races, they say we act like rats in a cage. I tried to argue, but check it. Every night in the news, we prove them suckers right, and I got the blues. America. We're all in the same gang. Siamo tutti nella stessa gang, nella stessa squadra, è il messaggio di questo pezzo del 1990, perché in realtà di qualche anno prima della tregua, che anzi scusa, voglio correggermi perché le rivolte di Watts sono esattamente queste qui di cui parlavo del 92 e non quelle degli anni 70, da cui è, degli anni fine 60, da cui è partita la storia delle gang. E insomma, mi sono segnato due pezzi, due barre, diciamo. Una dice gang violence needs to be wiped out, e poi ancora we got a suicide lifestyle. Cioè è proprio una chiamata a tutta la comunità nera di Los Angeles, ma in realtà di tutti gli Stati Uniti, a svegliarsi, a capire che non si sta facendo altro che ammazzarsi tra fratelli e tra sorelle. Per cui ci piaceva, ecco, ci piaceva... visto che è difficile non parlare di violenza quando si parla di pop, c'è modo di fare anche quello, è vero. E vogliamo farlo. È vero, è giusto anche dare Lo spazio a chi ci credeva, cazzo, questa cosa qua. Cioè, che non era soltanto violenza e territorio, ma era anche... Era principalmente musica. E, anzi, mi piace cercare di parlare di pop proprio come di una cosa di rappresentazione globale, diciamo, di tutta la comunità nera, come una questione che non prima, ma oltre che musicale, è anche politica, come in realtà forse molta della musica, ma nell'hip hop è stato molto più immediato, e a me piace parlarne, mi piace parlarne in questo modo. Ma insomma, mi hai detto tu, a proposito di We All In The Same Gang, a proposito di beef, a proposito di faide, ce n'è un'altra, al di là di quella tra Crips e Bloods, che non riguarda direttamente la musica ma solo indirettamente, ce n'è una che riguarda molto più direttamente la musica, ed è quella, come hai già anticipato, tra East e West. Esatto. Perché? Cerchiamo di capire che cosa succedeva. Allora, da una parte parte il genere, partono le basi, partono gli strumenti, partono i tools veri e propri per riuscire a fare questo genere. Tanto che New York veniva chiamata anche tra di loro già all'epoca la Mecca dell'hip hop. Dall'altra, chi c'è? Ci sono personaggi dal calibro di Snoop Dogg, Eazy-E di nuovo, Eazy-E, Dr. Dre, e chi ne ha più ne metta, li conosciamo tutti, è inutile stare qua a elencarli. E salutiamo qua un nostro amico che se ne sta andando. Ma che cosa succedeva di là? E lo si vede, cioè, purtroppo i film, le serie TV, cioè, ci hanno abituato a questo immaginario che è caratterizzante di quello che sono queste due coste, che sono completamente diverse, se non eppure così tanto unite. Di là c'era un modo di vivere diverso. Hanno smesso, cioè non c'era la disco music, non c'era questa importanza dell'elettronica, della dance, eccetera. C'era più, credo, una voglia di rappresentare, e quindi rappresenti, vabbè, stupidaccine. però il fulcro è che dall'88 in poi, cioè dagli NWA, dalla nascita del gangsta rap, la costa ovest ha cominciato molto presto ad avere un'importanza tale da oscurare la musica e l'importanza della costa est, perché in pochissimo, grazie alle produzioni di Dre, e forse inizialmente solo a questo, nel senso che poi era lui il genio musicale, ha cominciato a, insomma, praticamente tutto il rap che veniva ascoltato negli Stati Uniti era West Coast rap, e molto spesso era gangsta rap, per cui dall'insoddisfazione di chi viveva nei luoghi in cui quello era nato, e nei luoghi di cui quello era stato inizialmente la presentazione, è nata un po' questa faida che poi è diventata anche molto molto molto violentissima. Cioè, è sfociato subito molto, molto violenta, nel dissing vero e proprio. Cioè, c'è stata una canzone, fatta anche probabilmente da un artista che non contava niente all'interno in quel momento, ma che ha sancito effettivamente la guerra totale tra le due coste. Cioè? Non me la ricordo. No, allora la questione, ma sì, poi ci sono casi di vari di fraintendimenti. No, vabbè, ma al di là della cosa di Biggie e Tupac, cui parleremo un pochino dopo. Il primo vaffanculo che è stato detto all'interno di una produzione musicale ha sancito il sangue. Cioè, non c'è stato qualcosa che tornasse indietro. Fuck West Coast, fuck East Coast, è finita. Cioè, è si finita. Parla di quello. Anche perché gli ego coinvolti non erano decisamente piccoli né tranquilli. Allora, Coli, visto che comunque abbiamo anche bisogno di tagliare, perché ci resta molto meno di mezz'ora di diretta, io direi che andiamo a sentirci. Intanto, a proposito, abbiamo parlato di faide, che nello slang dell'hip hop si chiama beef, cioè manzo, carne di manzo. Di uno dei pezzi da 90 dell'hip hop, ma di sempre, ma soprattutto di New York, album postumo, cioè del 97, nel marzo 97 è morto, Biggie Smalls, cioè The Notorious B.I.G. Questo disco è uscito qualche mese dopo, postumo. Il disco si chiama Life After Death, appunto, e il pezzo si chiama What's Beef. Te lo dice Biggie Smalls, che cosa vuol dire beef? Non abbiamo bisogno di dirvelo noi a battito madre, mentre siamo in diretta su astralmedia.com, su Radio Exalge, live from Exalge, e questo è Biggie Smalls, What's Beef. The Commission, Uncle Paulie, P. Diddy, Cesar Leo, De Janeiro, yeah. Charlie Baltimore, Iceberg Slim, the most shady, Frankie Baby. We here. Do you know what beef is? Do you know what beef is? Ask yourself. Do you know what beef is? Come on. Check out this bizarre rapper style used by me, the B.I.G. I put my key, you put your key in. Money will be seen. We'll reach the fucking ceiling. Check. Check it, my calico been cop. This rap Alfred Hitchcock drop top notch. Player hatin' gon' stop. This instant, rappers too persistent, quick to spit. Biggie name on shit. Make my name taste like ass when you speak it. See me in the street, your jewelry, you can keep it. That be our little secret. See me, be that is, I that is, G Wiz. Motherfuckers still in my bed. Hope they know my nigga gotta fucking kidnap kids. Fuck them in they ass, throw them over the bridge. That's how it is, my shit is laid out. What? Fuck that beef shit, that shit is played out. Y'all got the goal. All I make is one phone call. All y'all disappear by tomorrow. All your guns is borrowed. I don't feel sorrow. Actually, your man passed the gap to me. Now check this. What's beef? Beef is when you need two cats to go to sleep. Beef is when your moms ain't safe up in the streets. Beef is when I see you. Guaranteed to be in ICU. One more time. What's beef? Beef is when you make your enemies start your G. Beef is when you roll no less than 30 deep. Beef is when I see you. Guaranteed to be your ICU. Check it. I done smoked with the best of them. Shot at the rest of them. Was about 100 or more. Maybe less of them. Got my rocks off. That nigga from the Brook just be wildin' on you. Just be styling on you. And I tried to warn you, but your eyes fucked up. Now I cleared them shits with hits. You on the fucking bench. Pardon my French, but sometimes I get kinda peeved at these weak MCs with these supreme ball alike. Lyrics, I call them like I see them, G. Y'all niggas sound like me. Y'all was grimy in the early 90s. Far behind me, it ain't hard to find me. Number one with the booyakah. Give me the Remy and the Chronic. Ain't no telling what I do to y'all. It's obvious the game's new to y'all. Take them ends you make and spend them on the tutor, huh? One shot, I'm through with y'all. What's beef? Beef is when you need two gas to go to sleep. Beef is when your moms ain't safe up in the streets. Beef is when I see you. Guaranteed to be in ICU. One more time, what's beef? Beef is when you make your enemies start your G. Beef is when you roll no less than 30 deep. Beef is when I see you. Guaranteed to be in ICU. There'll be nothing but smooth sailing. When I spit shots, now your crew's bailing. All I got is heat and tough talk for you. Tie you up, cut your balls off just for you. Man, listen, straight torture. Look what that slick shit bought ya. What's Beef? The Notorious B.I.G., also known as Biggie Smalls. Pezzo abbastanza violento, diciamo che questo è gangsta rap dell'East Coast, gangsta rap di New York. Insomma, perché a una certa Biggie è stato davvero una superstar. E anzi, leggiamo di come è riuscito a dare questa immagine molto patinata a un rap con messaggi così violenti. Però con questi campioni, che forse in questo pezzo si sentono poco, ma campioni, a parte gli archi li sentiamo, ma campioni molto R&B, molto con molti archi, con molti fiati, con questa patina luccicante, tipica del New York dei fine anni 90. È vero, diventato una super, super, superstar. Se posso dire, anche con quell'influenza che Tupac ha dato alla musica di questo genere, quindi non soltanto rabbia, ma anche gusto, anche una sorta di swing, di cosa accattivante, che prima magari nelle prime produzioni di Biggie non c'erano. C'era il gangsta rap, c'era la rima dura sul beat, e che poi invece questa cosa ha iniziato a manipolarla, a farla più morbida, a renderla più ascoltabile e a renderlo quello che effettivamente chiunque ha in mente chi è Biggie cosa ha fatto. Sì, esatto, dovevamo fare un disclaimer, forse facciamolo adesso. Non ce ne vogliate, fan dell'hip hop che siete all'ascolto, che suoniamo Biggie, non suoneremo Tupac, ma ne parliamo. Non è una scelta faziosa, ma semplicemente non lo so, una scelta artistica, se vogliamo. Però li abbiamo nominati. È una storia molto complessa. È uno dei fatti che ha sconvolto gli Stati Uniti praticamente negli anni 90, precisamente nel 96 e nel 97, di questi due rapper che erano molto amici, erano amicissimi, che però poi ad una certa è andato tutto male. E, brevemente, cosa succede? C'era Biggie nello studio, nei Quad Studios a Times Square a New York, ha dei piani abbastanza alti, che stava lavorando a un disco. Vedono Tupac passeggiare sotto, lo invitano a salire, e in realtà poi Tupac, come è entrato nel palazzo, forse prima di entrare nel palazzo, è stato aggredito e è stato vittima di un agguato con le pistole. Agguato, ma in verità si parla anche di un assalto a un rapimento. Non è un rapimento, scusate, uno ship, una, cioè, esatto, soldi, è stato robbed. Dicono, è vero. Però, tra l'altro, Tupac è sopravvissuto quasi per miracolo a questo fatto. Tipo due colpi in testa, no? Esatto. E lui dall'inizio è stato convinto, forse all'inizio un po' paranoico, ma in effetti, insomma, aveva forse le sue ragioni. È stato convinto di essere stato vittima, di essere stato raggirato, di essere stato, che questa trappola gli avessero tesa i suoi stessi amici, cioè Biggie e il suo team. Da questa cosa non si è mai ripreso. E anzi, no, il fatto che poi il contesto in cui viveva, le persone che lo circondassero, la speculazione che c'era della musica in quel momento, anche sul fatto proprio dello scontro tra West Coast e East Coast, tutto ha portato, probabilmente anche dato da questi personaggi di cui probabilmente adesso vi parlerà Pietro, uno primo fra tutti, il buon Shug. Il buon, che di buono forse aveva poco. Non ha niente. Shug Knight. Sì, esatto, perché questa faida East Coast-West Coast diventa anche una faida tra etichette. Ad est, fondata da Puff Daddy, c'era Bad Boy Records. Mentre ad ovest, fondata da appunto Shug Knight, c'era Death Row Records, una delle etichette più leggendarie forse della storia della musica, perché l'impatto che ha avuto sulla cultura popolare di un intero paese è davvero incalcolabile. E insomma, Tupac, delusissimo da questo agguato che pensa essergli stato teso da persone lì molto vicine, da persone della sua etichetta, Cambia, cioè, da quello che era prima ricordato come una persona che professasse pace e amore e uno stile di vita che doveva essere tutt'altro rispetto a quello della faida e della guerra. L'abbiamo sentito descritto così: era un po' Martin Luther King e un po' Malcolm X. Bravissimo, bello. E non so per quale motivo, ma probabilmente chi c'era lo sa, viene traviato e la sua musica... Ma perché? Perché ha ricevuto una telefonata in carcere dal buon Shug Knight. Certo. E gli ha detto: guarda che io ho esattamente l'importo per la tua cauzione qui sulla mia scrivania. Tu di una parola, cioè tu di che firmerai il contratto per me, che verrai alla mia etichetta e tu sei libero da domani. E di cosa stiamo parlando? Di un'etichetta che era già stata fondata su questi valori, non della pace, eccetera, ma assolutamente sul no, conflitto, bravo. Sul sul fuoco e sulla gang, sul non stava sul confine con il gang banging, come lo chiamavano, ma c'era proprio, ci andava a nozze. Anzi, Suge Knight aveva dei metodi che dire appunto di gangster e dir poco. Certo, era proprio, era anche una cosa conosciuta, andava sui giornali il fatto che Suge Knight promuovesse questo genere di musica, e ovviamente cioè, a livello anche proprio sociale questa cosa qua era un'altra volta una novità. Insomma, a girare il coltello nella ferita ci pensa un singolo di Biggie che esce pochi mesi dopo la sparatoria a Tupac, che in realtà era già stato registrato e preparato prima, ma il tempismo non è stato decisamente felice, perché questo singolo si intitolava Who Shot Ya, cioè chi ti ha sparato. Questa cosa per Tupac è stata, ma per tutta la scena probabilmente è suonata un po' come un messaggio, anche se originariamente forse non lo era. È beef, stato inteso faida, così. Cioè, beef, faida che non si è mai più risolta fino alla morte di entrambi. Il 13 settembre 96 è morto Pac, il 9 marzo 97 è morto Big, insomma, ed è stata la fine sostanzialmente di questa storia violenta, di violenza tra amici, assurdo. Ma in tutto ciò a noi piace pensarla come Snoop Dogg nel 2019, che nel suo disco dal titolo bellissimo I Wanna Thank Me, il secondo singolo che anticipava questo disco, sì, era questo, ed era Let the Bygones Be Bygones, perché anche Snoop, magari dico due cose dopo, ha avuto molto a che fare appunto con Death Row e con Suge Knight, le proprie dissidie con Suge Knight, ma nel 2019 ha deciso di lasciare che il passato fosse il passato e ha deciso di farlo in questo modo qua. I mean, you still got a good relationship with him today? Me and Suge, cool as a motherfucker. I'm cool with Suge, I'm cool with Master P, Dr. Dre, I'm cool with everybody. Yeah, I mean, how can you not be cool with Snoop? But I had to go get that cool with him. I had to go sit down with Suge. On Crip, that was my nigga. 18 years old, lost in Logan. Crack money had a nigga open, hoping that rap shit wasn't just cap shit. G-Dub, no Drake, okay, that's cool, but that's old news to niggas like us. Cause if so, he would've signed us off top. But bro, stay solid, so I'ma stay solid to that. Studio every night, to the early moan. Bloods and Crips all moving on one accord. Cuz did that, took Death Row to the top. My buzz did that, caught that case, came out safe. Blood did that. So through the ups and the downs, real ones know not to kick niggas when they down. Especially when we was down, that nigga picked niggas up. Gang bang on NY stages, hit niggas up. Y'all remember that? Yep. Yeah, he did some bullshit, I'm admitting that. For coming at a real crip like he ain't one. Especially when he helped fucking make one on the dead homies. I was at the motherfucking top when I hit my nigga up and said you need to grab pop. Told Daz, hook him up, rush straight up out the box. Here's the gang, here's the beats, here's the keys, here's the locks. Then we hit them niggas. Yes, sir. It was us, cuz. Look around, it still is. Just us, cuz. Dre Rich, Nate Gone, and Ricky too. And look at me, shit, I'm about to turn 50 soon. You always said I'd be a star in the game. Now I got a star on the fucking Walk of Fame. I hopped out, C-Walk, throw my star on the fucking Walk of Fame. And that motherfucking Death Row chain, nigga. I know you seen that. Shit, a lot of motherfuckers don't know. Shit, nigga, we been cool. This man changed my life. History together. I'm talking about real history, nigga. Like, when they write the history books, they gonna look at this shit like the Great Depression. You know, the stock exchange. This shit is historic, man. Death Row Records, man, we did that shit, man. Suge Knight, real nigga, man. I think about all the great shit you did, nigga. Let bygones be bygones. Yeah. What up, Dre? Dash Corrupt, what up, dog? Lady of Rage, RBX, DOC. Nate Dogg, rest in peace. Ricky Harris, rest in peace. DJ Warren G. Dr. Dre. City of Compton. City of Long Beach. Death Row Records will go down in history, nigga. We did that. Yeah, nigga. We did that. Let Bygones Be Bygones. Snoop Dogg nel 2019 ha deciso di lasciare che il passato fosse il passato, sostanzialmente di perdonare Suge Knight e di ricominciare a parlare con orgoglio della propria appartenenza a Death Row Records. Io direi... E abbiamo sentito l'inizio, scusa, cioè l'inizio è un'intervista a Snoop Dogg di Arian Foster, in cui Snoop Dogg dice appunto I'm cool with Suge, I'm cool with Daddy, I'm cool with everybody. Io direi... Cioè, sono ok con tutti. Certo, la cosa che si percepisce... Cioè, anche se non sai tutta questa vicenda, io direi che si percepisce quanto soul c'è in questo pezzo. Cioè, quanta voglia di rappresentare uno stato d'animo. L'ho proprio pensato mentre lo ascoltavo. Minchia, Snoop è proprio l'OG. È proprio OG. Cioè, OG. È il grande, il grosso della scena che ormai il suo messaggio è... Non lo so, parola molto pesante. Che ma... poi fosse stata la produzione, fosse stato lui stesso, però ci metti il pianoforte. Ci bello, metti, bello, bello, molto bello sto ci pezzo. Ci metti lui che parla in quel modo lì. Cioè, per forza, cioè, anche se non capisci l'inglese, sai che ti sta parlando di qualcosa che gli ha fatto del male nella sua vita, nella sua carriera. Quindi molto bello. Insomma, il problema che aveva con Suge Knight era il seguente. Insomma, velocemente, Snoop era uno dei giovanissimi di Death Row con un'ascesa velocissima. A una certa Knight finisce in galera per delle magagne che aveva, perché ne aveva sempre una. L'anno dopo Snoop passa a No Limit Records, infatti l'ultimo disco che ha fatto con Death Row è The Dogfather, e passa subito a No Limit Records, e lì c'è stato uno scambio di battute tra lui e Suge Knight. Una certa Suge Knight dice he used to be a superstar, now he's just a No Limit soldier. Cioè era una superstar, adesso è solo un soldato di No Limits. E Snoop risponde era un CEO, adesso è solo un detenuto. Poi il beef si risolve come? Perché poi dici molto facile anche lasciare che il passato sia il passato quando hai centinaia di milioni di dollari a disposizione. Esatto, perché si sarebbero sparati probabilmente se non... Capito? Perché nel febbraio 2022 Snoop Dogg decide di lasciare che il passato sia passato, sborsando non si sa bene quanto, ma per comprare Death Row Records. Cioè adesso Snoop Dogg è unico proprietario di Death Row. Mentre c'è un po' di delirio con Exalge, ma per finire il discorso, non si sa bene quanto l'abbia dovuto pagare, ma un anno prima l'etichetta era stata valutata 385 milioni di dollari. Snoop Dogg l'ha comprata nel febbraio 2022 ed è questa un po' la fine della storia violenta di Death Row Records, con Snoop Dogg che comincia a mandare il proprio messaggio, quello di lasciare che il passato sia il passato, di fare comunità tra musicisti hip hop, tra musicisti neri. Dunque, Moncoli, siamo arrivati all'ultimo pezzo, Piero. Siamo arrivati all'ultimo pezzo. E sono molto contento di dire che è stata una scelta proprio spontanea. Io ho detto, proprio detto tre parole. Cioè non è bastato niente. Sì, sì, è stato un no-brainer. No-brainer. No-brain. È stato tipo, ok, dobbiamo fare l'ultimo pezzo. Siamo alla penultima puntata. Abbiamo affrontato determinate cose. Ci vuole un pezzo che parla di hip hop, che parla di soul, che parla di R&B, che parla di emozioni. E che parla di Africa. Ma sai prima che cosa non l'abbiamo detto? No. Velocissimamente. No. Tra un mese c'è l'ultima puntata di Dibattito Madre, ma un mese dopo ci sarà la festa di fine stagione, per cui Save the Date, Drago, Save the Date, Draga, a Milano, sabato 17 giugno, facciamo festa qui a Exalge, presto tutte le informazioni utili. Ma insomma, questo pezzo è un no-brainer, perché lei mi piace tantissimo. Questo è un disco di 2 anni fa, del 2021, è venuta da poco a suonare a Milano, è inglese, di origini nigeriane, questo è il pezzo forse suo più conosciuto e non mi vergogno suonarlo in radio perché è una bomba a mano. Io non mi vergogno a dire che non lo conoscevo, l'ho sentito, ho detto ok, chiudiamo con questo pezzo. Quindi direi che... Lei è Little Sims, insieme a Obong Jayar. Il disco si chiama Sometimes I Might Be Introvert, il pezzo si chiama Point and Kill, lo conosciamo. E poi andremo direttamente in sigla. Grazie Drago, grazie Drago. Questo è stato Battito Madre, episodio 5, Hip Hop 101. Ci sentiamo tra un mese. Ciao. Grazie Pierino. body. I do as I want, I do as I like, I don't watch this, I don't fear nobody. Proper, no lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, agile, oh I fancy when I see a type. Point and kill, if I born it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, yo. To the room to do. Please cut the fuck to do. www.askthebenny.com.